Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buona giornata a voi e benvenuti, sono le 11.08 con Filippa Orreggi in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in redazione. Andiamo ai titoli del nostro sommario. Lupus, una malattia al femminile. Rinosinusite cronica, la soluzione salina può aiutare. Yoga, un esercizio semplice per iniziare bene la giornata e concluderla meglio. La puntata di oggi è dedicata ad una malattia che colpisce di prevalenza le donne in età fertile. È una malattia autoimmune che per anni è stata confusa, sottodiagnosticata e spesso mitizzata in senso negativo. Parliamo del lupus eritematoso sistemico, il LES come viene chiamato. È una patologia dalle mille forme, sintomi, una grande ingannatrice come è stata definita, che per fortuna nel tempo, grazie all'impegno di ricercatori, di medici e anche dei pazienti, è stata, come si dice, smascherata e oggi può essere controllata con terapie appropriate che contribuiscono sicuramente a migliorare la qualità di vita del paziente. In studio con me la professoressa Raffaella Scorza, ordinario di immunologia clinica e allergologia all'Università degli Studi di Milano. Professoressa, buongiorno. Buongiorno. Qui in studio con me abbiamo anche il dottor Domenico Maviglio, medico ricercatore all'unità operativa di reumatologia all'Istituto Humanitas di Rozzano e responsabile del servizio di immunologia clinica. Buongiorno dottor Maviglio. Buongiorno a lei e grazie dell'invito. Prima che mi dimentichi vi dico subito che il dottor Maviglio è lo specialista del mese di Humanitas, quindi per tutto ancora il tempo, certo, che per ancora un, paio di settimane. Se volete indirizzare le vostre mail potete andare sul sito di Humanitas e naturalmente l'invito è valido anche per noi. Se durante o dopo questa trasmissione avete bisogno di mettervi in contatto con i nostri ospiti, scriveteci a esserebenessere@radio24.it. Intanto, già che vi do tutte le coordinate, vi ricordo anche il nostro numero verde per intervenire in trasmissione, 824 0024, i messaggi 349 238 6666. Allora adesso, dopo tutte queste informazioni, possiamo partire. Dottore, io vorrei subito cercare di dare una definizione, perché il LES è una malattia complessa. Gli aggettivi che vengono usati per definirle ci danno un po' il quadro del problema. Infatti leggiamo che è una malattia autoimmune, è cronica e sistemica. Vogliamo provare a dare una spiegazione molto semplice, non per addetti ai lavori, di questi tre termini? Certo, ci riproverò nel modo più semplice possibile. Autoimmune, per autoimmune, come lo stesso termine indica, è una malattia in cui il sistema immunitario reagisce contro noi stessi. Sì. Cioè, al posto di reagire contro quelli che possono essere insulti esterni, quali un'infezione da virus, da batteri, un organo esterno, per esempio in corso di trapianti, ma anche di una trasformazione tumorale, perde quella che si chiama tolleranza immunologica e quindi perde la capacità di bloccarsi di fronte all'attacco contro le nostre cellule. Quindi autoimmune è un scagliarsi in modo patologico, assolutamente patologico, contro i nostri stessi organi o cellule. Sì. Sistemica, come dice la stessa parola, è una malattia che agisce in modo contemporaneo su diversi organi. Può agire sulla cute, in questo caso specifico sulla cute, come anche sulle articolazioni, sul rene, sui polmoni, ma su tantissimi organi, e questo rende la malattia molto complessa e spesso la diagnosi, in quanto questi, diciamo, bersagli precisi sono spesso differiti nel tempo, non sono mai contemporanei, ma quindi spesso avviene una cosa senza l'altra, ma è spesso molto difficile. Infatti per questo la malattia è stata definita nel mondo anglosassone the great imitator, cioè la grande imitatrice. Non si sa mai esattamente come aspettarsi e come questa arriva. Cronica è una malattia cronica, nel senso, in medicina cronica è tutto quanto quello che dura più di un tot di mesi, in genere 6 mesi. Quindi questa è una malattia cronica che perdura purtroppo per tutta la vita. Professoressa Scorza, io a questi aggettivi ne aggiungerei uno che sicuramente non è preso dai testi scientifici, però secondo me dà un po' l'idea. Subdola, perché si manifesta con sintomi che possono essere comuni a molte altre patologie, sintomi aspecifici, stanchezza, malessere, un po' dolore articolare, problemi alla pelle, febbre, ma anche perdita di peso, appetito, insomma, tutte queste, chi non si sente, non ha provato questi sintomi, anche più sintomi insieme, e si è detto, ma sarà un po' di stress, lavoro troppo, ho un'influenza che mi trascino. Ma io penso che lei abbia descritto perfettamente quello che molto spesso è l'esordio dell'LES. È del motivo anche per cui non sempre viene fatta la diagnosi. È una malattia che somiglia molto spesso a un'infezione virale. Basta pensare ai dolori articolari dell'influenza. Sì, la sono febbre, tutta rotta. Sono tutta rotta. La stessa cosa dice l'ES. Mi sento stanca. E quindi, in realtà, dal momento che il lupus è una malattia rara, mentre le altre cause di questi sintomi aspecifici sono molto più frequenti, è giusto che il medico in prima battuta pensi alle cause più comuni. Quando però la sintomatologia si protrae, quando non c'è una causa che poi si riesce a dimostrare, bisogna porsi il sospetto di una diagnosi differente. E per nostra fortuna ci vengono in aiuto gli esami del sangue, perché un lupus in fase attiva ha quasi sempre un aumento degli indici di infiammazione, la famosa VES, che si alza, ha dei segni di iperattività del sistema immunitario, per esempio un aumento della quota degli anticorpi circolanti, e soprattutto ha degli anticorpi molto specifici e molto caratteristici, che sono degli anticorpi diretti contro il nucleo della cellula ed in particolare contro quella struttura che porta i geni dell'individuo, cioè il DNA. Tra poco ve l'abbiamo presentata in tratteggiata, entreremo nel dettaglio, parleremo di sintomi, li guarderemo più da vicino, naturalmente di diagnosi, di terapia. Adesso le terapie sono cambiate. Interverrà insieme a noi una giovane donna a cui è stata fatta già una ventina di anni fa una diagnosi di LES, lo possiamo chiamare così, vero? Sì, per non dire lupus eritematoso sistemico, l'abbreviamo. 824 0024, oggi in studio a vostra disposizione due esperti di cui potete sicuramente approfittare, i messaggi al 349-238-6666. Una mela al giorno. Adesso una buona notizia, o meglio un consiglio molto utile per chi soffre di rinosinusite cronica. Bene, una spruzzatina di soluzione salina aiuta a ridurre i sintomi, quali dolore e congestione, che sono proprio tipici di queste forme. A confermare l'utilità di questo semplice rimedio c'è anche una revisione Cochrane che ha preso in considerazione i dati di 8 differenti trial randomizzati e di altri 16 studi per un totale di oltre 1600 pazienti. Insomma, i numeri ci sono. Ma cerchiamo di capire come usare la soluzione salina al meglio, e ci aiuta il dottor Andrea Franzetti, che è tornato a trovarci. Buongiorno dottore, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a tutti. Il dottor Franzetti è primario di otorinolaringoiatria all'ospedale Bassini di Cinisello Balsamo e quindi è una persona super indicata per capire come usare la soluzione salina e soprattutto perché funziona. Allora, sicuramente funziona. I motivi per cui funziona sono sostanzialmente due, almeno quelli più evidenti. Il primo è per un effetto meccanico sullo spostamento del muco che si accumula normalmente all'interno delle fosse nasali e dei seni paranasali. La seconda perché l'effetto tonico dei sali contenuti nella soluzione salina ha un effetto tonificante sia sulle ciglia che sulla quantità di muco e la sua consistenza. Lo rende più fluido e più facilmente trasportabile. Dottor Franzetti, meglio sotto forma di spray o come lavaggio? Allora, dipende. Nel senso che sotto forma di spray raggiunge tutta la cavità del naso e dei seni paranasali e quindi si usa soprattutto nelle forme meno dense, dove il muco è meno denso, uno fa più è più facile soffiare il naso. Sì. Mentre invece il lavaggio serve più per rimuovere un muco più denso. Sotto forma di spray è più usualmente utilizzato. Dottor Franzetti, meglio farlo alla sera o alla mattina questo lavaggio nasale? Meglio farlo alla sera e alla mattina, nel senso che alla sera per migliorare la respirazione notturna e alla mattina per rimuovere le secrezioni che si sono depositate durante la notte. Quindi per iniziare la giornata e per concluderla, due meglio di una, insomma. Come certo. Dottor Franzetti, un'ultima domanda. La soluzione salina si acquista in farmacia? Certo, assolutamente, va acquistata in farmacia, deve essere sterile, deve essere un preparato sterile perché altrimenti può creare dei problemi. Grazie dottore, buona giornata. Non so se anche lei può usare lo spray, si usa lo spray con la soluzione? Lo uso abitualmente. Bene, allora la penseremo. Grazie, buona giornata. Arrivederci a tutti. Pronto soccorso. Stiamo tornando ad affrontare il tema del giorno, parliamo di LES, una malattia autoimmune che colpisce soprattutto le donne in età fertile. E, professoressa Scorza, le donne sono più colpite degli uomini nel LES, ma questa preferenza è comune nelle malattie autoimmune. Qual è l'età di insorgenza e perché le malattie autoimmune preferiscono le donne? Allora, l'età sicuramente 9 pazienti su 10 sono donne. E altrettanto vero, il 90% dei pazienti donne ha l'esordio della malattia in un'età che va tra il menarca, cioè le prime mestruazioni, e la menopausa. Evidente che c'è sicuramente un ruolo degli estrogeni come attivatore del sistema immunitario, ma anche il ruolo calmierante del testosterone sulla risposta anticorpale. Il LES è per definizione una malattia da autoanticorpi ed immunocomplessi, cioè un legame antigene-anticorpo si chiama immunocomplessi, quindi è una vera e propria malattia da autoanticorpi. Ce ne sono di vario tipo, si depositano in tessuti, si depositano o fanno fuori le cellule del sangue, e quindi gli estrogeni sono attivatori. Manca l'effetto calmierante del testosterone. Abbiamo in linea con noi Paola da Milano. Buongiorno Paola. Buongiorno, buongiorno. Finalmente avete parlato dell'ES. Oh Paola, mi hanno mandato tantissimi messaggi sull'ES. Comunque, allora, io ho una figlia affetta da LES, 28 anni, ha cominciato a 11, conosciuto anche la dottoressa Scorza, in cura al Gaetano Pini, tutto ok, purtroppo nel negativo. Due domande. Le gravidanze, perché mia figlia ci tiene tantissimo, ma purtroppo mia figlia è già in dialisi. E le faccio anche questa domanda: da quando è in dialisi Denise, in 2 anni è migliorata tantissimo, tanto vero che spero non arrivi mai il trapianto, non devo gridarlo forte perché sennò mi darebbero una martellata. Sì, però diciamocelo tra di noi Paola. Appunto, io la vedo talmente bene che certo c'è questa storia della dialisi, ma la vedo talmente bene, i suoi valori sono migliorati, è sempre migliorata con tutte le varie cose, gli è venuto il tumore all'utero, gli è venuto questo, gli è venuto quell'altro, gli occhi non li vede. Però devo dire che sta bene, quindi volevo queste due risposte. Beh, allora, diciamo che starebbe meglio forse se non fosse arrivata la dialisi. Qualche volta purtroppo capita, e la dialisi in una persona giovane prolungata nel tempo ha un effetto devastante sulla distanza, per cui il trapianto d'organo, il trapianto di rene è sicuramente una cosa da consigliare, perché riporta il paziente ad una condizione di vita non solo normale ma di benessere reale fisiologico. Una volta che c'è il trapianto, servono gli immunosoppressori molto potenti, particolari per far accettare il trapianto, e quindi anche la malattia va in remissione. C'è da dire una cosa: la dialisi di per sé è immunosoppressiva, per cui di fatto il fatto che sua figlia stia meglio adesso non è così strano, direi che è accettabile, però una dialisi non è molto compatibile con una gravidanza, quindi direi che, visto che il desiderio di una donna giovane è quasi sempre quello di aver figli, che io non scarterei o non avrei tanto timore dell'opzione trapianto. Dottor Maviglio, sui fattori scatenanti, sulle cause, non possiamo dire di essere a buon punto, no? Ci sono delle ipotesi. La ricerca scientifica sicuramente è molto avanzata, ma siamo sempre a livello delle ipotesi, più di quello non si può dire. Mentre sui fattori scatenanti, ci sono, sì, andando a leggere su internet, ci sono delle storie che sembrano quasi delle leggende metropolitane, cioè il lupus scoppiato dopo un'esposizione solare. L'unica... Assolutamente vero. Ecco, mi sembra... Vorrei l'unica cosa su certa, sicuramente, che si può dire per i fattori scatenanti, a parte poi gli ormoni di cui la professoressa parlava prima, per cui c'è molta evidenza clinica ma poca scientifica, nel senso che non c'è un'ipotesi scientifica convalidata per cui l'estrogeno porta, però la frequenza, l'epidemiologia suggeriscono sicuramente questo. Però anche la pillola ogni tanto attiva, certo, la malattia è un'esperienza comune, anche se poi andando a cercare, cercando viene svalutata la cosa. Però in realtà io, la mia esperienza personale, di aver visto molti esordi del LES in due momenti critici: o subito dopo l'estate, dopo un periodo di esposizione al sole molto lungo, oppure proprio in persone che hanno cominciato a prendere la pillola. sarà bevenuto ugualmente, non è sicuramente, però possiamo metterle come la fotosensibilità è uno dei sintomi della malattia, rash cutanei, il lupus eritematoso vuol dire eritema sì. Sulla pelle, quindi rossore sulla pelle, quindi è sicuramente l'unico segno scatenante certo è la fotosensibilità, quindi direi alle pazienti con lupus di non esporsi al sole, insomma, dei nostri agosti. Altri fattori scatenanti possono essere anche forti stress, lutti. Non c'è una correlazione così diretta come c'è con la fotosensibilità, quindi se parliamo di cose certe possiamo certamente parlare di fotosensibilità, se parliamo di ipotesi, di teorie più o meno verosimili possiamo parlare di estrogeni sicuramente dal punto di vista clinico, ma dal punto di vista sperimentale ancora da dimostrare. Fattori infettivi, ci sono tantissimi studi, tantissime ricerche per quanto che portano a identificare una patogenesi, cioè un meccanismo di malattia virale o batteriologico, spesso più virale che batteriologico. Ci sono tanti virus che sono, diciamo, indicati come verosimilmente responsabili, ma la parola è sicuramente verosimile, non c'è certezza. Ecco perché la terapia, la stessa terapia, come credo diremo dopo, è una terapia che cura i sintomi, non certo il meccanismo della malattia. In linea con noi abbiamo Antonia. Antonia, buongiorno, benvenuta. Buongiorno a voi. Io ho chiesto ad Antonia di intervenire perché Antonia è una giovane donna a cui è stata fatta diagnosi di LES una ventina d'anni fa. Antonia. Dimmi Nico. Nico mi piace molto, tutti gli amici mi chiamano Nico. Senti Antonia, io ti ringrazio di essere intervenuta perché volevo che tu raccontassi ai nostri ascoltatori tra loro ci saranno sicuramente persone che hanno ricevuto come te una diagnosi, ma anche familiari o persone come tante che il LES non l'hanno mai sentito nominare. Ecco, che cosa vuol dire a 20 anni ricevere una diagnosi di LES e come ha cambiato la tua vita? La mia vita in particolare non l'ha cambiata molto, anche perché io comunque non ho lasciato che la patologia potesse cambiare molto la mia vita, però sì. posso dire sicuramente è una patologia abbastanza invalidante e abbastanza devastante, soprattutto nei momenti di riacutizzazione, nei momenti in cui si presenta. E comunque l'importante è sempre prenderla con un aspetto positivo, con una forza proprio di volontà, insomma. Senti Antonia, sicuramente noi ne parleremo, proprio abbiamo la possibilità di farlo con i nostri esperti, la relazione con il paziente è fondamentale, credo che lo sia per tutte le malattie, per le malattie croniche in particolare. Tu come ti stai muovendo con i medici, che assistenza trovi, sei riuscita a essere educata da loro e quindi a diventare sempre più competente, quali sono le difficoltà o invece i vantaggi, i punti di forza? Allora, io credo che comunque un ottimo medico sia quello che debba interagire con il paziente. Io fortunatamente ho avuto questa possibilità nel momento dell'esordio della mia patologia. Infatti sì. Io sono stata anche una che ha usato dei farmaci 20 anni fa che nessuno avrebbe immaginato di poter usare in questi casi. Sicuramente sono stata aiutata da questo rapporto con il medico. Sicuramente però c'è ancora molta strada da fare, perché essendo una malattia multidisciplinare bisogna avere il contatto e bisogna proprio affidarsi a più specialisti, perché purtroppo l'LES non colpisce una sola parte dell'organismo. Come diceva il medico prima, nella sua definizione c'è la parola eritema, ma oltre alla parte dermatologica e rash cutanei tante volte si è colpiti anche negli organi principali, come certo, come abbiamo sentito dalla professoressa scorsa. Senti Antonia, approfitto, insomma, questa compagna di vita che non ti lascia, comunque tu hai imparato ad accettarla, a conviverci, a prendere un po', no, le misure. Se tu dovessi dare quindi un messaggio a chi ha ricevuto da poco una diagnosi, che cosa potresti dire? Sicuramente di non scoraggiarsi, perché rispetto a 20 anni fa abbiamo fatto dei grandi progressi. Sì. Sicuramente c'è ancora tanta strada da fare. Mm. Però ecco, il mio sogno più recondito potrebbe essere quello di avere un'equipe multidisciplinare che collaborino tra loro. Sì. Purtroppo io credo che questo non sia sempre molto facile. Ma ci si lavorerà, no, verso questa direzione. Quindi avere un'equipe che si prende cura di te, una persona, magari un capogruppo che sa interpellare i vari specialisti. Io penso che professoressa Scorza verso questa direzione si stia andando. Assolutamente, però è altrettanto vero che è importante che a tenere le fila della malattia di un paziente sia un medico in particolare, che certo, si deve avvalere, deve interagire con gli altri specialisti, ma deve essere poi lui a condurre il paziente per mano e a decidere un pochino con l'aiuto degli altri le terapie necessarie. Antonia, ti ringraziamo per essere stata con noi. Scusami, volevo dire l'ultima cosa. Sì. Avrei voluto ringraziare la professoressa Scorza perché da Milano sta partendo è partita un'idea molto, sì, bella e molto valida di un autoaiuto a livello psicologico con un gruppo. Sì. E che sta lavorando da qualche mese, grazie a questo. E questo Scorza. Funziona, i gruppi di autoaiuto. Allora lanciamo quest'idea, anche magari verrà raccolta da altri centri. Antonia, grazie per essere stata con noi. Buona giornata. Ciao Antonia. Ciao Antonia. Siamo tornati insieme, LES, questo è il tema di oggi, 824 0024, è una malattia che colpisce le donne, in prevalenza le donne, mi correggo, prevalenza le donne in età fertile. 9 volte su 10. Sì, per questo è quasi, si può dire, una patologia al femminile, ma andiamo subito a Roma, c'è Anna che ci aspetta, 824 0024, buongiorno Anna, benvenuta. Buongiorno a te. Buongiorno. Io sono una paziente abbastanza complicata, nel senso che a me è iniziata una fase di sfogo sulla pelle negli anni 70, solo non ci capiva nulla nessuno, fino a che siamo arrivati a fare un prelievo istologico e mi era stato riscontrato granuloma anulare, ma non c'era nulla da fare, solo che questa fase mi spariva nelle gravidanze, sì, e poi riappariva, solo che poi è successo che io... nel 93, stando al sole al mare, ho perso conoscenza, è subentrata l'epilessia. Da allora io sto in condizioni molto critiche, complicate, perché ho dovuto fare prelievi del midollo osseo perché a me scendono i globuli bianchi di colpo, quindi con gli antiepilettici ho problemi con tolleranza con i farmaci. E quindi Anna, io penso, ma chiedo conferma ai miei esperti, il lupus, il LES è una malattia complessa che aggredisce, oltre a essere grande ingannatrice, e cambia direzione e bisogna marcarla, sì, molto stretta. Mi viene in mente, no, l'epilessia fa parte del quadro clinico del LES, sì, del neuroLES, ed è una complicanza abbastanza grave, molto spesso associata alla presenza di anticorpi, di anticardiolipina, che facilitano le ischemie. Ma non solamente, ci può essere proprio un interessamento di recettori del sistema nervoso centrale che si associa all'epilessia. Per cui l'epilessia può far parte del quadro clinico. E l'epilessia non è il solo sintomo del neurolupus, ce ne sono moltissimi altri diversi, da cognitivi a dell'umore. Esatto. Ecco, si può, Anna ci ha raccontato un quadro complesso, difficile, non se la passa bene Anna, perché ha interessanti, il lupus la sta aggredendo da più, su più fronti. Certo. Mi chiedevo, ma voi siete in grado come medici di anticipare le mosse di questo lupus, di sapere se colpirà i reni, la pelle, le articolazioni? Potete in qualche modo essere più furbi di lui e bloccare le sue mosse? Allora, dipende molto dalla bravura del medico di base. Perché il medico di base, che di fronte a un paziente che presenta in genere sintomi molto molto specifici, come abbiamo detto all'inizio, si fa venire il sospetto, perché non riesce a trovare una causa, questi sintomi non passano. C'è una donna giovane che non si spiega perché debba avere i globuli bianchi bassi, i linfociti bassi, la febbricola, la stanchezza, e le fa fare degli esami che mettono in evidenza molto spesso degli anticorpi molto caratteristici, quelli diretti contro il DNA, quelli diretti contro un altro antigene che si chiama SM, un nome un po' strano, però voi, che sono, insomma, molto specifici. Ecco, dagli esami del sangue voi riuscite a farvi un'idea molto e dire... Spesso sì. C'è un LES o un pre-LES. O questa donna svilupperà molto verosimilmente un LES. Non sapete quando. È assolutamente, direi, impossibile saperlo. Anna ci chiama dalla provincia di Pisa. Buongiorno. Sì, buongiorno. Siamo qua. Mi scusa la voce un po' afona. No, ma guardi, abbiamo tutte delle voci un è po' così. È la stagione. Ecco, bene, a posto. Allora, no, io come Antonia ho ricevuto una diagnosi in età piuttosto giovanile, a 19 anni. Sì. Pur se attualmente ho 25 anni, anche se la mia forma è una forma molto più leggera. All'inizio mi hanno detto era semplicemente una forma epidermica, discoide, che si è manifestata a seguito di un fortissimo stress emotivo, quindi anche prima ascoltavo... Sì, questi fattori scatenanti. Sì, sullo psicosomatismo, sì. Solo che diversa Antonia io sono stata molto poco seguita, non mi è stato spiegato niente, mi hanno dato del cortisone, tieni, portati questo a casa, e come va. E via. Cortisone per via sulla pelle o per via sistemica? Per via sistemica. Hanno delle pasticche di cortisone da prendere oppure delle pomate? Cortisone più pasticche, il Medrol. Sì. E Anna, e quindi adesso lei si sente un po' non seguita, ecco? Assolutamente no, un po' è stata anche negligenza mia, perché avendo una forma più leggera, sì, diciamo, essendo giovane, ho detto va bene, dai, va tutto bene, però poi puntualmente ho delle situazioni, cioè risento di manifestazioni infiammatorie, fortissima spossatezza. Attualmente Anna, mi sembra, la professoressa Scorza, riferendosi appunto al discorso di Antonia, diceva l'ideale sarebbe avere una persona, un medico che coordini gli altri specialisti, ma comunque rimanga una persona di riferimento. Ma poi soprattutto che sia in grado di istruire il paziente. Io credo che questa telefonata sia emblematica. Un paziente con una malattia cronica, rara, che può avere molti aspetti, deve essere istruito, deve conoscere la malattia, deve capire perché deve fare delle terapie, deve sapere quali sono gli effetti collaterali dei farmaci e affrontare serenamente il decorso. In questo modo le cose vanno molto meglio. Anna, io sono contenta soprattutto per lei, per questa puntata, perché io spero che i miei esperti l'abbiano convinta ad occuparsi del suo caso, non a preoccuparsi, ad occuparsi di lei. Anna, devi farsi seguire, questo me lo deve promettere, mettersi in mano ad un medico che le piaccia, perché anche questo è importante, mi sicuramente confermate, e lei deve esigere dal medico che la segue di essere istruita. Lei deve rendersi competente, deve dopo nel tempo saper fare, saper essere. Anna, ci faccia sapere, contiamo su di lei, eh? Grazie mille, grazie, in bocca al lupo. Erminia dalla provincia di Milano, buongiorno. Buongiorno, sento io il telefono perché dopo aver ascoltato tutto quello che è stato detto sull'ES, ho fatto un collegamento tra tutti i sintomi che ho sentito, che comunque sono complessi, anche un po' subdoli, con quello che sta soffrendo una mia nipote, la quale comunque non vuole farsi curare, eccetera, ha dei problemi anche di appetito. Allora io volevo, però i sintomi ce li ha tutti, in seguito a stress, le è stato diagnosticato proprio in seguito a forte stress, queste le cause, diciamo, di una febbriciatola continua, però anche ha degli eritemi sulla pelle, abbastanza un rossore. Quanti anni ha Erminia, la sua nipote? 25. Beh, direi che assolutamente vale il caso di rivolgersi a un centro specialistico o un immunologo, comunque il medico di famiglia, per cominciare a capire. Magari non è assolutamente, magari nella maggior parte dei casi la specificità è proprio questo, va sicuramente controllata. Io direi che vorrei fare innanzitutto i complimenti alla prima paziente che ho sentito, Antonia. Io direi che quello lì è proprio il gold standard, perché è sicuramente importantissimo il contributo del medico, dello specialista e l'esperienza di un centro, ma è altrettanto fondamentale, se non di più, il contributo del paziente, la volontà del paziente di reagire positivamente alla malattia, di conoscere la malattia e di affrontarla in modo serio. Assolutamente. Perché quindi, questa è veramente la chiave per poter convivere con una malattia che può farci avere una qualità di vita anche spesso normale. Quindi, tornando invece ad Erminia, il consiglio è di rivolgersi. Senza preoccuparsi. Ma occuparsi. Occuparsene, quindi suggerire alla nipote di parlarne con il medico di base, che con una serie di esami abbiamo visto, per noi sembrano difficili queste sigle, ma per i medici sono facilmente comprensibili. E sono ormai comprensibili, abbastanza comuni. E sono comuni. Erminia, grazie per averci chiamato, andiamo a Vallì, dalla provincia di Treviso, 824 0024. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno, volevo chiedere... gli esperti che avete lì, io ho un problema di lupus anticoagulant e di anticorpi antifosfolipidi, li tengo sotto controllo, sono controllato ormai dal 98. Volevo sapere come loro relazionano questi con il Lex o il Lex. Sì. Anche allora, il lupus anticoagulante e gli anticorpi antifosfolipidi sono degli anticorpi che sono abbastanza frequenti nel Lex. Sono degli anticorpi che danno delle trombosi, trombosi venose, trombosi arteriose, e sono responsabili di una patologia della gravidanza, la poliabortività. Quasi sempre è una poliabortività tardiva, nel terzo trimestre. Ci sono donne che non sanno di avere questi anticorpi, che fanno 6-7 aborti, e invece una volta individuata la causa sono gravidanze che sono destinate ad andare bene, perché si fa la terapia con l'eparina come anticoagulante e le cose vanno nettamente bene. Ecco, ci siamo tornati insieme in linea con noi, abbiamo chiesto rinforzi, ci ha raggiunto anche il dottor Renzo Marcolongo, immunologo clinico all'azienda ospedaliera Università di Padova. Buongiorno dottore, benvenuto. Buongiorno a voi. Dottore, io sono contenta che lei si unisca ai suoi colleghi per mandare un messaggio molto chiaro a chi soffre di una malattia cronica in generale, ma oggi parliamo in particolare di lupus, che di LES, anzi, che abbiamo visto è una malattia, oltre che essere ingannatrice, che sorprende, cambia, e quindi anche chiacchierando con le nostre ascoltatrici abbiamo sottolineato l'importanza della relazione con il medico. Ciascuno deve fare il proprio lavoro, il paziente non deve essere solo paziente, ma diventare competente. Esatto, io sono quasi 30 anni che curo malati che soffrono di questa malattia, e da loro e con loro ho imparato molte cose. Mi viene da chiederle, secondo lei, come si può curare una malattia del genere senza il malato? Mi spiego, al giorno d'oggi, proprio per far fronte alla complessità di una malattia cangiante dai mille volti e che richiede trattamenti, l'uso di farmaci a volte impegnativi, è impossibile fare un buon lavoro senza un coinvolgimento attivo del malato, mettendolo però in condizione, attraverso un addestramento, un'educazione all'autogestione, di far fronte in maniera efficace e sicura alla sua malattia. In altre parole, è un dovere dal quale non ci si può esimere, anche perché la gente al giorno d'oggi vuole giustamente dire la sua e avere il proprio ruolo. Il resto, il malato vive la sua vita di tutti i giorni, non sempre con il medico accanto, grazie al cielo. Di conseguenza c'è prima di tutto una questione di sicurezza da assicurare. Mi scusi il bisticcio, la sicurezza è importantissima con una malattia che può avere anche complicazioni repentine, impreviste, sì, e gravi. La sicurezza è imperativa quando si usano farmaci, come a volte accade in questa malattia, immunosoppressori, o poc'anzi si è parlato di anticorpi antifosfolipidi, anticoagulanti. Purtroppo la gente, secondo il Mario Negri, sono circa 400 gli incidenti ogni giorno che accadono con i farmaci in Italia e che portano qualcuno all'attenzione del medico. Bene, La gente al giorno d'oggi tende ad aver paura da un lato dei farmaci, magari una paura ingiustificata di farmaci utilissimi che usati bene sono indispensabili, o d'altro canto a farne un uso un po' disinvolto. Allora qui si tratta di insegnare alle persone come si usa un farmaco e perché si sta assumendo un farmaco. E immagino, mi scusi dottor Marco Longo, anche far capire al paziente quando un sintomo è da subito da riferire al medico. Certamente. E quando invece un sintomo, direi, che ci sta nella sua malattia e che può essere in qualche modo, passatemi questo termine che a voi non piace, ma autogestito, ma a intanto me, in questo contesto va bene. Perché non è questione che piaccia o no, è una realtà l'autogestione, che non vuol dire fai da te. Certo. Vuol dire gestire nei limiti del lecito, del possibile e della sicurezza le proprie responsabilità rispetto alla propria condizione di malattia, alla propria cura. Allora io vorrei che, dato che vi ho tre qua con me degli esperti, mandare ciascuno di voi, siamo in chiusura, abbiamo per il LES, poi passeremo allo yoga, un messaggio, ciascuno di voi scelga, allora anzi scelgo io per voi, al dottor Marco Longo chiedo di mandare un messaggio ai suoi colleghi, al medico di base, allo specialista. Non breve. Basta l'informazione, non basta informare, bisogna capire cosa hanno, bisogna verificare cosa hanno capito i nostri malati e che cosa si portano a casa, perché a volte noi parliamo tanto e parliamo difficile, ma bisogna vedere cosa ha capito quell'altro, certo. Cioè la persona, quindi, che abbiamo davanti. Quindi verificare. Passo subito al dottor Maviglio, e a cui invece chiedo di rivolgere un messaggio, un appello ai pazienti. Secondo me i pazienti devono assolutamente partecipare attivamente alla malattia, il loro goal deve essere, il loro scopo primario deve essere avere una qualità di vita quanto vicina alla qualità della gente normale, col miglior sforzo, col minor sforzo possibile. Professoressa Scorza, non ci siamo dimenticati dei familiari, di chi vive accanto ad una, magari ad una donna giovane a cui viene fatta questa diagnosi, anche loro hanno un ruolo molto importante. A loro che cosa diciamo? Di lasciar parlare il paziente, di non sopraffarlo con le paure e con i consigli, e di favorire proprio una vita di relazione e una vita familiare assolutamente normale. Allora, io spero che i messaggi siano arrivati, se vi restano dei dubbi, volete insomma saperne di più, scriveteci a essere benessere@radio24.it. Ringrazio il dottor Marco Longo, grazie per essere intervenuto. Grazie a voi. Grazie ai miei due ospiti. Grazie qua a presenti. Lei. Grazie a lei. Alla professoressa Scorza, al dottor Maviglio, potete contattarli. Il dottor Maviglio, specialista del mese per Humanitas. Noi comunque possiamo raccogliere le vostre testimonianze, i vostri dubbi, scrivendoci a essere benessere@radio24.it. Grazie davvero, ci avete dato una mano. Grazie, arrivederci a tutti. Arrivederci. Ma prima di salutarvi saluto Benedetta Spada, che è tornata a trovarci qua in studio con me. Ciao Benedetta. Ciao Nicoletta, salve a tutti. Allora, ieri abbiamo provato la posizione del bambino. Esatto. Oggi? Quest'oggi vi propongo un semplice allungamento in avanti, viene chiamato così, è proprio molto facile, possiamo eseguirlo in qualsiasi momento, anche in ufficio se volessimo. Ci portiamo in una postura verticale, inspiriamo e lasciamo scivolare le braccia lungo i fianchi, facciamo sempre attenzione che le piante dei piedi siano ben appoggiate a terra, rivolgiamo lo sguardo avanti a noi, espiriamo profondamente, inspirando andiamo ad intrecciare le mani, le dita delle mani dietro il bacino e iniziamo espirando a sollevare le braccia verso l'alto, inclinando il tronco in avanti, rilasciando completamente il capo e le braccia al di là del capo. Manteniamo questa postura per quanto è possibile, 5 o 6 respiri, chiaramente se soffriamo di cervicale la manterremo un poco di meno, e cercheremo lentamente di risollevarci ripercorrendo un poco tutta la colonna vertebrale, una vertebra alla volta, e quando rilasceremo le braccia lungo i fianchi espireremo profondamente. Benedetta, il momento ideale per eseguire gli esercizi, o questo esercizio in particolare? Diciamo che se fatto di prima mattina ci prepara, ci rinforza un poco per la giornata. Se fatto la sera invece magari appunto toglie quelle tensioni o quelle contrazioni accumulate durante la giornata. Quindi il consiglio mattino e sera. Come mattino, una piccola pillolina. Vero? Mattino per avere il buon passo, alla sera per scaricare le tensioni. Benedetta, noi ci sentiamo domani. Grazie. Appuntamento anche a voi. dopo il Giro delle 11. Buonissima giornata da Nicoletta Carbone.